that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby head. They must have paid her a nice price, she's putting on a string of love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life. Ciao a tutte e ciao a tutti. Dato che fra poco sarà il 25 aprile, abbiamo deciso di aprire questa trasmissione con la dedica, un omaggio alle donne che resistono, e abbiamo scelto 5 donne molto diverse, ma tutte quante hanno lasciato il loro ricordo e la loro impronta nella nostra storia. La prima è Mica, Michela Echeverri. Fu l'unica donna che durante la guerra civile spagnola comandò una milizia antifranchista, una capitana, così la chiamavano. Vivrà a lungo, morirà ultra novantenne e non cesserà di rincorrere la miccia della rivoluzione. Lo farà anche a Parigi nel 68, scendendo in piazza insieme al Maggio francese. A suo modo, con eleganza e consumata esperienza, alla ragazza che raccoglie San Pietrini a mani nude per scagliarli contro la polizia, insegna a indossare i guanti prima di staccarli dal terreno. In caso di fermo non avrà colpevoli unghie sporche di terra, ma mani immacolate da brava ragazza. Poi Carla Capponi. Carla Capponi è una partigiana che ha fatto parte dei GAP qui a Roma, e il 23 marzo del 44 compirà l'attacco insieme a altri compagni a Via Rasella. Carla Capponi, anche lei, è una donna che ha sempre continuato la sua lotta di resistenza, e la vogliamo ricordare accanto, nelle borgate romane, nel dopoguerra, accanto alle donne del popolo, a lottare con loro, quasi fosse, e a portare avanti un discorso quasi femminista. E la ricordiamo ancora dopo il 75, lo stupro del Circeo, quando Donatella Colasanti, la ragazza sopravvissuta allo stupro fascista, cercava un aiuto, cercava una collocazione, cercava una casa in cui rifugiarsi, è stata Carla Capponi a offrirle il rifugio. Poi Anna Maria Ludman. Anna Maria Ludman apparteneva alle Brigate Rosse, era una combattente delle Brigate Rosse. Non era mai entrata in clandestinità veramente, era una cosiddetta militante irregolare. È stata uccisa il 28 marzo 1980, quando i carabinieri hanno fatto la strage entrando nell'appartamento di Via Fracchia a Genova. Anna Maria Ludman ha una storia esemplare, perché è quello che si dice, una donna qualsiasi, era un'impiegata, ha fatto una vita da impiegata, ha preso coscienza di classe in questo percorso ed è stata sempre ricordata dai compagni di lavoro, dalle amiche, come la classica ragazza normale. Questo perché i percorsi che portano alla consapevolezza molto spesso sono molto semplici. Maria Soledades Rosas, detta Sole, era stata arrestata proprio in Val di Susa nella protesta per i sabotaggi contro il TAV. Le presunte prove erano quantomeno fantasiose, ma i magistrati decisero l'isolamento carcerario, che l'isolamento carcerario era la punizione più consona. Il compagno si impiccò nel carcere delle Vallette di Torino. Lei l'11 luglio del 1998 venne trovata impiccata nella comunità sotto i ponti di Bene Vagenna, dove nel frattempo era stata trasferita per scontare gli arresti domiciliari. Sole era una compagna estremamente sensibile, ha scritto una bellissima lettera dal carcere dicendo: così ti ammazzano tutti i giorni, piano piano, per farti sentire più dolore. Diana Blefari, delle Nuove Brigate Rosse, arrestata il 22 dicembre 2003, condannata all'ergastolo per l'omicidio di Marco Biagi, quello che ha fatto il libro bianco sul lavoro. Il 31 ottobre 2009 è stata trovata suicida nella sua cella del carcere di Rebibbia, qui a Roma, suicidata dallo Stato. Il suo nome di battaglia era Maria. Ciao a tutte, ciao a tutti di nuovo. La prima parte della nostra trasmissione la vogliamo dedicare al fascismo di ieri e al fascismo di oggi. Questo perché? Perché di solito il 25 aprile è una ricorrenza oleografica, cioè si portano fiori alle lapidi, si fanno cortei e sit-in in memoria e si ricorda la resistenza rispetto a un fascismo storico. Questo poi non parliamo della parte istituzionale che lo usa su uso e consumo, lo sfrutta per darsi una parvenza di democrazia, mentre di fatto non è altro che un lavarsi la faccia rispetto a una situazione di quotidianità che invece dice tutt'altro. E questo perché? Perché la storia e la memoria dovrebbero servire a leggere il presente. e noi vorremmo fare proprio questo. Vorremmo cercare di fare di questo 25 aprile un momento di lettura della situazione in cui stiamo e capire perché questa società ha dei connotati e dei principi che possono essere considerati effettivamente fascisti. E non il termine fascista non viene usato da noi nel senso come si usa normalmente, come insulto o come tanto per liquidare una situazione particolarmente reazionaria. No, ne facciamo proprio un problema di cercare in quella che è l'impostazione sociale attuale quelli che sono i connotati che appartengono all'ideologia fascista. Allora, tanto per cominciare dal panorama pubblico, per esempio, questa società è fascista perché tende nel cosiddetto e fittizio gioco democratico, seppure borghese, tende a superare il Parlamento, a esautorarlo, a introdurre il governo diretto del potere economico, nel caso attuale che poi è il potere delle multinazionali, con la distruzione sistematica della sovranità parlamentare e degli organismi di mediazione, partiti, sindacati e del concetto stesso di politica, no? Viene demonizzata la politica e anche con un discredito e un equiparare per esempio destra e sinistra, no? Fare di tutto un'erba un fascio, mentre la destra e sinistra esistono e come, ma non sono la sinistra non ha niente a che fare con quella parlamentare che è destra moderna. Tant'è vero che noi abbiamo un governo che non è elettivo, un Parlamento che è illegittimo, l'elezione del capo dello Stato che è illegittima. Quindi una situazione. Sì, comunque anche questi sarebbero dei criteri un po' fallaci, no? Perché comunque anche se avessimo praticato di più il voto in tutti questi anni saremmo andati a votare dei partiti che, pur seduti diciamo in dei posti diversi all'interno del Parlamento, comunque propongono dei programmi che sono assolutamente, cioè, quasi interscambiabili, no? È un po' quello che nella democrazia americana succede da sempre, è un'alternanza molto fittizia, molto artificiale, cioè molto, sì, proprio fasulla, no? Per cui è abbastanza indifferente. Anche qui sta la depoliticizzazione, perché alla fine si riduce ad essere una lotta di opinioni anche interno al Parlamento, cioè non soltanto nei talk show dove chiaramente, certo, no, non c'è un confronto politico, non c'è un conflitto politico men che meno, ed è tutto ridotto a un grande gioco di opinioni contrarie. Questo però accade anche nelle sedi decisionali, dove effettivamente invece più che le opinioni dovrebbero contare davvero i programmi politici, no? Però anche là ci si perde invece se si ascoltano le discussioni parlamentari, diciamo, cioè viene soltanto il latte alle ginocchia, ma fondamentalmente non si riesce neanche a capire chi sta parlando, se non quando prendono la parola, non so, la Lega piuttosto che Fratelli d'Italia. Allora è rimasto qualche connotato identitario, agli altri si sono sciolti in un grande magma. Sì, questo però ha gettato un grande discredito sul fare politico, perché nel comune sentire si è identificato questo percorso del neoliberismo di affossare completamente qualsiasi parvenza di differenza, soprattutto perché è la sinistra socialdemocratica che si è fatta carico del neoliberismo e di diventare destra, e questo ha gettato grande discredito, portando a dire nel comune sentire che la politica è sporca e sono tutti uguali, è anche fascista perché pretende di normare qualsiasi possibile aspetto della nostra vita, e quindi ovviamente facendo questo si sposta su un livello etico morale che non è più nemmeno quella morale nostra, solamente esclusivamente cattolica, per cui almeno è riconducibile a, no, almeno, che ne so, alla vecchia DC che per 40 anni ci ha governato questo paese. No, è proprio un semplice controllo sociale che deve passare attraverso ogni norma su tutto. e infatti questo porta poi a uno stato di polizia. Lo stato di polizia è il risultato di un'impostazione totalitaria dello Stato, no? Lo stato di polizia pretende un controllo sociale serrato, come diceva Noemi, e l'incarcerazione della dissidenza non per quello che fa, quindi per le azioni che compie, ma per quello che è. E in questo senso sono stati sono emblematici i CIE, che prevedono la detenzione amministrativa per quello che si è, per la condizione che si attraversa, e non per quello che si è fatto. Per condizione, tant'è vero, insomma, che si può essere fermati per strada, no? Per il colore della pelle diverso, piuttosto che sì, questa è proprio una detenzione per condizione che sposta completamente tutto un sistema penale invece incardinato in teoria in una democrazia liberale su un principio garantista, no? Di un habeas corpus, insomma, che difende la libertà personale fino a che tu non hai commesso qualcosa. E invece, ma da questo punto di vista, francamente, secondo me le democrazie autoritarie, non è soltanto un'opinione, insomma, è anche molto frequente sentirla, insomma, hanno dei connotati anche nazisti, non soltanto fascisti, perché ad esempio se il nazismo ha introdotto la contabilizzazione nell'amministrazione dello Stato e del governo, ha introdotto, cioè ha ridotto, no, ogni individuo fondamentalmente a un numero, no? Quando si parla dei campi di sterminio, insomma, dei campi di concentramento, questa è la cosa che chiaramente più emerge, no, per prima. Questa contabilizzazione che si fonda fondamentalmente su spostare tutto il peso della discussione, tutto il peso politico sull'efficienza di un sistema che chiaramente non si mette in discussione, cioè la discussione non è mai sui fondamenti dell'autorità, del potere, sul patto sociale, cosa include questo patto sociale, in virtù di quale fine viene siglato, eccetera. Questo si dà per scontato, è completamente fuori dal panorama di riferimento e si pensa soltanto a far funzionare meglio il meccanismo. Quindi quando parliamo di tecnologizzazione della democrazia, di dittatura tecnocratica, eccetera, in realtà, diciamo, i germogli di questa tecnocrazia vengono da quell'esperienza là, dall'esperienza nazista, e adesso le democrazie sono, cioè, molto, hanno le mani anche molto libere nel riproporre questo tipo di andamento politico. È anche fascista e nazista in questo caso, perché ovviamente ripropone, oltre che un atteggiamento nazista come diceva Marghe, anche un atteggiamento neocolonialista, no? In cui appunto questo razzismo è strisciante, neanche troppo, perché ormai si palesa con forme abbastanza visibili e non striscia manco troppo, e ci crea questa situazione appunto di guerra tra poveri, e dove appunto il nemico non viene mai identificato, è sempre comunque una questione che riguarda il singolo evento. Ripensiamo un po' a Tor Sapienza, no? Cioè la singola aggressione, il singolo la rissa da bar che è il problema, non è il problema che ci sono dei CARA, ci sono dei CIE, ci sono degli istituti dove vengono più o meno carcerati, no? Delle persone semplicemente perché sono rifugiati, sono apolidi, no? Anche là comunque si pensa sempre a come far funzionare il sistema dell'accoglienza, adesso lasciando stare che è un grande business dove tutti, insomma, fanno un sacco di profitti sulla pelle degli immigrati e dei migranti, eccetera, ma è sempre, la discussione è sempre centrata su come farli arrivare, come tutelare le frontiere, come salvarli in mare, eccetera. Cioè non è mai, non sentirai mai da nessun politico, per quanto si dichiari il più radicale nel panorama parlamentare, cioè da sinistra, parlare del perché si generano i flussi migratori, quali sono le motivazioni, dov'è la genesi di queste migrazioni. Non è che semplicemente, cioè, al massimo si dice fuggono dalla guerra, ma chi quella guerra l'ha provocata, da dove viene quell'aggressione, quali interessi copre, quale logica segue, in quale sistema nasce e si sviluppa, di questo, cioè, nessuno lo metterà mai in discussione, e anche gli intellettuali su questo scarseggiano un pochino, no? Perché certo, avrebbero tanto di cui parlare, invece E in effetti il concetto profondamente fascista è il predominio della la superiorità occidentale, cioè il predominio del quella ancora della razza bianca e del bianco occidentale sugli altri popoli, che questo ha ricaduta, comporta una consapevolezza di questa situazione di privilegio anche all'interno dello Stato-nazione, per cui porta a un razzismo, a uno sviluppo di razzismo molto forte. Noi diciamo sempre infatti che questa società è dell'antirazzismo razzista, perché si fa bella di tanti discorsi antirazzisti, ma poi ripropone fortemente di fatto con le guerre neocoloniali Dio, patria e famiglia, perché la gerarchia tra i popoli, la gerarchia all'interno tra le classi, la gerarchia per esempio buon ultima nel rapporto di lavoro, che poi è stato il primo che il neoliberismo ha attaccato, il mondo del lavoro. E dicevo, è una a proposito del mondo del lavoro, mi viene in mente quello che è successo venerdì, che c'è stato lo sciopero dei mezzi qui a Roma. E il fascismo, per esempio, attacca fortemente il diritto allo sciopero, no? L'ha sempre fatto ed è uno dei cardini, la pacificazione sociale intesa come non alla socialdemocratica, per cui con dei contentini e delle riforme si cerca un accomodamento nel conflitto sociale. No, la pace sociale intesa nel senso che ognuno deve fare lo sforzo per il bene comune della patria e non deve danneggiare in nessun modo questo percorso verso un bene comune collettivo, e quindi si deve capire che deve stare al suo posto e qual è la sua collocazione. Tant'è vero che venerdì lo sciopero, nonostante fosse di due sindacati che sono decisamente di destra come l'UGL e la CISNAL, è uno sciopero riuscito, e questo fra compagni ci dovremmo anche chiedere come mai, però questo è un discorso secondario. In questo contesto a noi interessano i discorsi che sono stati fatti dopo. Il sindaco di Roma Marino, dato che sono stati effettuati dei piccoli danni tra virgolette alla cittadinanza, ha detto che avrebbe provveduto a fare dei licenziamenti già dal martedì. Del Rio ha detto che è inaccettabile una gestione dello sciopero che mette in ginocchio una cittadinanza. Il CODA ha detto che denuncerà l'ATAC per violazione dei principi e delle leggi contro lo sciopero. Allora, questo avrebbe dovuto far saltare in aria tutti i sindacati e tutti i lavoratori. Invece siamo molto addomesticati, la socialdemocrazia ci ha, col politicamente corretto, addomesticato a tal punto che noi non sappiamo più dire che uno sciopero, se è uno sciopero, deve fare male. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. La parentesi di quest'oggi sarà in forma ridotta perché abbiamo poco tempo. La parentesi intera, che anzi sarebbe più lunga del solito, la potete trovare poi sul blog. Si intitola Mercanti di morte. come al solito e come sempre, quando succede una tragedia più grande di quelle che quotidianamente attraversano il nostro presente, allora tante e tanti si sbracciano in cordoglio peloso, lacrime istituzionali, interesse simulato e strumentale. Un barcone stipato di migranti si è rovesciato nel Mediterraneo 2 giorni fa. Il bilancio dei morti e delle morte è pesante, ma fa effetto perché sono morti tutti e tutte in una volta. Si sa, il numero fa notizia, ma ne muoiono quotidianamente in quantità minore e passano così in un silenzio non curante. Eppure, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. Una tragedia immensa, provo vergogna e orrore, è necessario rivedere le leggi antiaccoglienza, la lotta ai mercanti di morte è il primo fronte sul quale lavorare per estinguere la dolorosa piaga dell'immigrazione illegale, l'escalation dei viaggi della morte è il segno che siamo in presenza di un'organizzazione criminale che sta facendo tanti soldi e rovinando tante vite. Leggo soltanto alcune delle dichiarazioni che ho riportato. Ma provate a indovinare di chi sono? Beh, sono assolutamente intercambiabili nel tempo e nello spazio politico. E non perché di destra e di sinistra, non è che perché destra e sinistra non esistano più. Esistono e come? Ma perché, mentre la destra tradizionale ribadisce concetti che sono sempre stati suoi, la socialdemocrazia, PD in testa, è diventata destra moderna, facendosi sponsor del credo neoliberista. Allora, nell'ordine, le dichiarazioni sono di Enrico Letta, presidente del Consiglio, e Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, sulla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Angelino Alfano, ministro dell'Interno, sul naufragio di Lampedusa del 1 luglio 2014. Matteo Renzi, presidente del Consiglio, sul ribaltamento del barcone di 2 giorni fa. A margine è interessante notare la dichiarazione di Laura Boldrini, presidente della Camera, che alla esternazione di Angelino Alfano che sarebbe necessario bombardare le imbarcazioni degli scafisti risponde: ma come facciamo a sapere quali sono le imbarcazioni giuste? Il problema non è quindi un'affermazione come quella di Alfano priva di qualsiasi scrupolo, ma come metterla in atto. D'altra parte, cosa aspettarsi da una patriarca? Questo è il suo ruolo, questo è il punto di arrivo di una carriera fatta proprio nell'ambito della strumentalizzazione occidentale dell'antirazzismo. Questo è il motivo per cui è stata messa lì. La colpa delle stragi in mare sarebbe quindi delle modalità con cui i migranti arrivano qui da noi, delle situazioni locali nei paesi del terzo mondo che non impediscono gli imbarchi, delle politiche europee che non aiutano l'Italia, delle leggi italiane non adeguate, dell'insufficienza delle strutture poliziesche, militari e di controllo, della carenza di strutture umanitarie di soccorso, ma soprattutto la colpa sarebbe degli scafisti, chiamati mercanti di morte, che lucrano sulla tratta degli esseri umani. Sì, la colpa è dei mercanti di morte, ma i mercanti di morte sono i paesi occidentali. E vi lascio al seguito perché sarebbe lunga e la trovate sul blog. Allora, in questa seconda parte della trasmissione avremo un collegamento, una compagna che un anno fa ha edito un libro che si chiama Un fiore che non muore. Ops, lei ha fatto l'introduzione al libro e l'introduzione ci è piaciuta molto e quindi la per introdurre un po' la chiacchierata riprendiamo i fili del discorso, che è un discorso che portiamo avanti da anni e che insomma il 25 aprile è stato da noi caratterizzato in vari modi in questi ultimi anni. Uno dei discorsi per esempio che abbiamo affrontato è il fatto che la resistenza è stata uno di quei momenti, come ce ne sono stati altri anche nella storia, insomma nella nostra storia principalmente italiana, in cui essendoci una rottura forte della normalità, una sospensione emergenziale, anche i ruoli sessuati, quindi la divisione diciamo dei compiti e dei ruoli all'interno della società tra maschi e femmine su base sessuata è in parte saltata. Dopo questo rimescolamento dei ruoli, però, una volta che questi periodi di emergenziale e di sospensione rientrano e quindi si riafferma una normalità, spesso diciamo rimane poco di questo sconvolgimento e quindi è sempre difficile riallacciare, forse, cioè mantenere una memoria, no? Ed è proprio anche per questo che ogni volta il 25 aprile parliamo di memoria, perché come dicevamo anche all'inizio della trasmissione, queste giornate commemorative poi in realtà, più che essere utili a ricordare da dove veniamo e quindi proprio davvero a parlare di cosa è stata la resistenza, la lotta di partigiani e partigiane, sono invece molto più utile ad ammantare di buonismo un sistema che sta riproducendo esattamente sta ribadendo gli stessi principi su cui il fascismo, che invece partigiani e partigiane hanno combattuto e sconfitto. E quindi, visto che in questo oblio diciamo della storia finisce un po' tutto, c'è finito dentro anche la partecipazione delle donne e delle partigiane alla lotta della resistenza, e con questo libro questa compagna cerca proprio invece di riprenderla, di ravvivarla e di darci degli spunti. Diciamo che a noi è piaciuta tantissimo l'introduzione che ha fatto Ilenia Rossini a un libro, una raccolta, poi è una raccolta di documenti che non ha curato lei, ma che comunque sono editi da Red Star Press, e il libro si intitola Un fiore che non muore. Ci è piaciuta moltissimo questa introduzione perché apriva due concetti che sono fondanti dell'approccio al rapporto tra donne e violenza. Per esempio, leggiamo un pezzettino dal suo libro, dalla sua introduzione, prima di chiamarla, proprio su un concetto che lei esprime sul anche, combattevano anche le donne, no? Dice che in questi frammenti raccolti nel libro si sente pesante come un macigno il peso più o meno esplicito della parola anche. Ci sono gli uomini, i valorosi e coraggiosi combattenti, e accanto a loro ci sono anche le donne. Per molti anni si è ritenuto, infatti, per decenni dopo il 1945, che la resistenza femminile fosse una resistenza di seconda classe, in quanto resistenza non armata. A scardinare questa convinzione è intervenuta la categoria di resistenza civile, diffusa in Italia soprattutto attraverso i lavori di Anna Bravo. Essa comprende tutte le attività di non collaborazione e di sabotaggio nei confronti del nemico, i comportamenti conflittuali delle popolazioni che si valgono non delle armi ma di strumenti come il coraggio morale, l'inventiva, la duttilità, le tecniche di aggiramento della violenza. La resistenza civile in questo senso non è opposta a quella armata e riguarda innanzitutto la protezione di chi è in pericolo, ricercato dai nazisti e dai fascisti. Allora, questo incipit ci ha fatto riflettere molto, anche perché appunto era, come diceva Margherita, molto affine al discorso che abbiamo fatto noi partendo dal 25 aprile sui ruoli e sui ruoli sessuati e su come si muovono. Adesso vorremmo sentire, cerchiamo di chiamare Ilenia e ne parliamo insieme a lei. Everyone else is twist I will take. And I ride to work every morning, wondering why. Sit in the chair and be good now. Oh, and become all that they told you. The white coats and a room. And I'm calling my baby, calling my baby. Pronto? Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Bene, sei in linea. Noi i collegamenti per telefono non siamo mai riusciti a farli benissimo, quindi questo che sei riuscito subito. Bene, allora. Ci fa piacere. Allora, siamo in collegamento con Ilenia Rossini, che ha fatto l'introduzione al libro Un fiore che non muore, la voce delle donne nella resistenza italiana. E stavamo dicendo che ci era piaciuta moltissimo questa introduzione, perché affrontava due concetti che si legavano tantissimo anche alla ricerca e all'analisi che avevamo fatto noi partendo dal 25 aprile come coordinamento in questi anni. E c'è uno, questo concetto di anche, no? Quando tu dici che la parola, ci sono gli uomini valorosi e coraggiosi combattenti, accanto a loro ci sono anche le donne. Sì, questa è, diciamo, una congiunzione un po' particolare, diciamo, perché appunto le donne non vengono solitamente considerate negli episodi in cui prendono le armi, ma io direi in tutti gli episodi di conflittualità vera e propria, vengono considerate, diciamo, con un ruolo ancillare, e quindi c'è la resistenza ovviamente è quella maschile, e poi sì, vabbè, c'erano anche le donne, delle sparute presenze qua e là, ma anche oggi, ne parlavamo con te in uno scambio degli ultimi giorni, insomma, c'è una manifestazione che magari ci sono manifestazioni che magari hanno momenti conflittuali, e quindi si dice che c'erano anche le ragazze a tirare sassi, a scontrarsi. Sì, questo mi ha colpito moltissimo recentemente, infatti, una manifestazione recente in cui hanno detto anche le ragazze erano travisate e facevano e tiravano le cose, e faceva male al cuore, questo diceva il giornalista. Sì, sì, poi diciamo vediamo anche dei paradossi, perché appunto c'è questa visione molto, secondo me, addomesticata e borghese, che vede le donne come in un certo senso estranee alla violenza, e questo le porta ovviamente ad essere estranee alla rivoluzione in ogni modo. E dall'altra parte vuole anche, diciamo, sottolineare la negatività poi della conflittualità, degli episodi conflittuali, perché se le donne sono quelle che sono brave perché sono non violente, e quindi il conflitto è la parte giusta, questo porta ovviamente ad una visione addomesticata di tutta la società. E questo nella resistenza è appunto un momento particolarmente evidente, perché la resistenza, quella imbalsamata, appunto, dicevate prima voi, certo, quella delle ricorrenze del 25 aprile istituzionali, delle targhe, eccetera, è una resistenza che è una visione della resistenza che l'immagine della donna combattente l'ha sempre molto emarginata. La donna in armi non è stata considerata considerata un'eroina, non c'era posto nell'Italia del dopoguerra per ascoltare la voce delle donne che avevano preso le armi, quindi le donne venivano, diciamo, dipinte come staffette, cose che magari erano anche nella maggior parte dei casi, però dobbiamo considerare sempre il contesto sociale e politico in cui la resistenza ha sviluppata, ovviamente, e quindi ad esempio quei pochi riconoscimenti, quelle poche medaglie al valore militare che le donne hanno ricevuto, l'hanno sempre ricevute con delle motivazioni che richiamavano il fatto che avevano combattuto come uomini. Certo. E veniva proprio detto come uomini, con un coraggio virile, venivano dette, o leonino, quindi come uomini o come animali, e invece diciamo viene esaltato il ruolo della donna che non so, che nasconde i partigiani, che nasconde le armi, che trasporta le armi, ma non la donna che spara e che uccide, perché questa è una visione che è totalmente estranea dall'interpretazione borghese dei rapporti E infatti la donna in armi viene vista come un'estranea, e quando partecipa è una donna che è anche una diciamo come se fosse un orpello, una cosa che sta lì per caso, e non viene mai considerata invece una presa di coscienza politica. Tant'è vero che poi addirittura dopo il 25 aprile in certe manifestazioni pubbliche, quando i partigiani sfilavano, è stato consigliato alle donne di non portare le armi. Sì, sì, sì. Sì, ma addirittura a volte di non partecipare, perché in molti casi non si voleva dare non si voleva che queste donne venissero considerate delle poco di buono, perché avevano vissuto a lungo in un ambiente maschile, e quindi o venivano proprio non fatte partecipare, oppure appunto venivano fatte partecipare magari con la fascia da infermiera, perché certo, l'infermiera era un ruolo accettato per la donna, perché è un lavoro di cura, certo. E invece la donna con le armi non lo è. Basta vedere, anche se diciamo facciamo riferimento all'immagine poi iconografica, le foto delle donne in armi sono foto posticce, chiaramente posticce, di donne che neanche, cioè che chiaramente non sanno neanche tenere bene quelle armi. Invece le donne, quelle autenticamente combattenti, non vengono generalmente ritratte nelle foto del tempo. Certo, per esempio un'altra delle cose che noi nel nostro indagare i ruoli abbiamo diciamo trovato anche in tempi più recenti, no? Quando negli anni 70 molte donne hanno rivestito ruoli importanti nella lotta armata, è che le donne avevano fatto questa scelta sempre per qualche motivo, per amore, o perché non avevano l'amore, perché cercavano l'amore, per frustrazione. Questo l'hanno detto tante volte di Ulrike Meinhof, no? Che lei avrebbe fatto questa scelta non per una scelta politica, ma per frustrazioni d'amore, oppure perché sono circuite, quindi plagiate, quindi sì, sono da un cattivo maestro, un cattivo compagno, eccetera, oppure poi sono quelle che si sono pentite, hanno capito quello che hanno fatto. Le donne sono quelle che sono molto di più state coinvolte dai sentimenti di umanità quando hanno partecipato alla lotta armata. Questo è venuto fuori in maniera prepotente, oppure erano brutte, perché c'è anche questa e questo si lega alla frustrazione poi, perché cioè, sei brutta, non è un uomo, quindi devi scaricare questa tua frustrazione nella lotta, sì, no? Sì, sì, io mi ricordo negli anni 70 quando hanno arrestato Nadia Mantovani, mi pare che le compagne di Rosso hanno fatto un articolo, perché i giornali mainstream avevano calcato tantissimo la mano sul fatto che era brutta, e quindi essendo brutta chiaramente aveva trovato questa strada per mettersi in luce. Sì, però poi dall'altra parte diciamo che questa, cioè che la propaganda è pronta anche in realtà a cambiare questo paradigma, no? Perché invece, se adesso andiamo a vedere quanto sono incensate e portate in palmo di mano le combattenti curde, no? Lì invece si va a rimarcare il fatto che sono molto belle, l'uso delle armi in opposizione alla barbarie che avanza, no? E quindi chiaramente vanno bene, perché sono ribelli da un'altra parte, cioè le stesse ribelli della Valsusa qua invece vengono criminalizzate, mascolinizzate, eccetera. Però per dire che comunque questi paradigmi, appunto questo immaginario, è pronto anche a ribaltarsi nel momento in cui la funzionalità lo vuole. Sì, perché diciamo la riduzione della donna a un immaginario estetico sia negativo che in positivo accomodante, quindi l'importante è depoliticizzare a quel punto. E se lo fai appunto per amore o perché non hai l'amore, se lo fai perché sei bella o se lo fai perché sei brutta, è comunque un modo per depoliticizzare quella che invece è una scelta politica, a volte cosciente, a volte meno, ma questo vale per le donne come per gli uomini, uomini. Certo. No, mi veniva in mente prima, ad esempio, che hai ricordato Carla Capponi, sì, all'inizio della trasmissione, ma io in realtà nella mia vita studio la polizia, quindi mi capita di, negli anni 40-50, mi capita di trovare appunto le carte in cui si parla anche di Carla Capponi e della sua attività nelle borgate, sì, come dicevi tu. Sì. E c'è un documento del 48 in cui il questore di Roma, che era un personaggio talmente discutibile che fu, diciamo, accusato da donna Rachele, dalla moglie di Mussolini, di averla stuprata, descriveva Carla Capponi come, ovviamente, cioè, sempre riducendola al ruolo di moglie di Bentivegna. Certo. Quindi diciamo era l'orpello di Bentivegna. Allo stesso modo Marisa Cinciari Rodano, che era comunque anche lei una militante dell'Udine, nelle borgate eccetera, veniva descritta come una ragazza di buona famiglia che si era talmente infatuata, proprio usando questi termini, nella vita politica, ed era così stata invasata dalle idee comuniste da divenire intrattabile, diceva. E anche qui, diciamo, ogni volta che una donna poi anche in forme di militanza politica, per quanto allora magari considerate in un'ottica di guerra fredda particolarmente rivoluzionaria, poi ovviamente l'Udi non è che fosse questa, diciamo, organizzazione rivoluzionaria, però comunque la donna viene sempre depoliticizzata e descritta come una pazza, un'invasata o ridotta a compagna del marito, e questo è davvero indicativo. Appunto, dicevi anche tu, questo vale per le partigiane tantissimo, vale tantissimo per le donne che hanno scelto la lotta armata degli anni 70. Mara Cagolle era la moglie di Curcio, e così via. Franca Salerno era, si diceva che era stata, diciamo, traviata. Anna Maria Mantini era stata fatta scelta della lotta armata per amore del fratello. C'è sempre un uomo che porta quindi queste donne, che, visto che non hanno consapevolezza e stanno là a cercare di capire se sono troppo innamorate, se non sono così tanto amate, è sempre un uomo che poi o il desiderio di un uomo che le porta a fare delle scelte. E questo perché comunque il fatto che la donna è vista nella nostra cultura come madre ha portato a vedere le donne come, visto che sono quelle che danno la vita, le donne dovrebbero essere incapaci di toglierla. Questo storicamente è sbagliato, perché ogni qualvolta che ovviamente una donna ha avuto posizioni o di potere o comunque di possibilità di esplicarsi, ha agito come gli uomini, e poi comunque non... Ma il maschile e il femminile sono costruzioni sociali, e quindi sì, tutti, esatto, quelli, cioè, non viene considerato appunto che il genere è una costruzione sociale. Certo. Viene la donna ridotta a un istinto materno, che invece scientificamente è dimostrato che non esiste, è culturale anche quello. Certo, che è culturale, tant'è vero che c'è un bel passaggio nel libro Una donna di troppo di Daniela Pellegrini, che dice che il ruolo sessuato, quindi la consapevolezza del ruolo sociale, viene instillato nei bambini prima ancora che loro si rendano conto del ruolo del sesso biologico. Cioè, loro neanche, certo, si rendono conto del sesso biologico, loro prendono atto del sesso sociale che gli viene. Quindi le donne non sono, cioè, tutte le caratteristiche che hanno le donne sono quelle che questa società vuole da noi, in effetti, no? Ma come ogni tanto si sente dire, 30 anni, quindi hai l'orologio biologico, ma non esiste alcun orologio biologico che dovrebbe spingere necessariamente una donna verso la maternità. È una scelta bella, se una donna decide di averlo, ma non è detto che tutte le donne hanno questa spada di Damocle. C'è l'orologio sociale, che prima o poi sociale avranno, cioè, nel senso, e poi, ad esempio, appunto, ti dicevo, ho avuto sia con te, insomma, anche con Noemi, ne avevo parlato di quell'articolo, secondo me orribile, uscito sul Manifesto, credo un paio di settimane fa, un editoriale di La Melandri. Sì, sì, e parlava del letto genere della violenza. Certo. E diceva che la violenza, quindi, è una prerogativa maschile, lasciando quindi intendere che invece un mondo governato da donne sarebbe un mondo bellissimo, in cui io e, non so, Erma Marcegaglia gireremmo per mano felici e contente. Laura Boldrini, ti consiglio Laura Boldrini. Sì, io voglio Laura Boldrini, Laura per favore, Boldrini, lasciatemelo. Insomma, questo anche qui c'è un quotidiano che si dice comunista, in cui non ci sta alcuna diciamo né costruzione storica in quello che pubblicano, né nessun idea di lotta di classe, perché non è che gli uomini fanno la guerra, è una minoranza di uomini che hanno avuto il potere, da cui le donne erano escluse, che hanno fatto guerra e stermini eccetera eccetera, senza considerare che laddove le donne invece hanno avuto un minimo di ruolo, di potere, hanno fatto le stesse cose. C'è Maria la Sanguinaria, come dice anche il nome, era tanto sanguinaria quanto donna, o comunque possiamo, diciamo, considerare mille donne che nel bene o nel male, perché non è detto che ovviamente tutte le donne che scelgono la violenza la scelgono la parte giusta, per, diciamo, una visione di progresso, appunto. Francesca Mambro non ha scelto una violenza per, diciamo, di un altro progresso tipo, sociale, certo. Però appunto anche lei, peraltro, a proposito di Francesca Mambro, c'era quello, c'è quell'orribile, secondo me, canzone dei, adesso mi sfugge il nome, che anche lì, che lei viene ricondotta al suo amore per Fioravanti, no? Quindi, diciamo, anche poi da una parte e dall'altra, a destra come a sinistra, una donna è sempre una che non ha una coscienza politica e che non può neanche prenderla, e che quindi fa questa scelta. È evidente tra le partigiane, con le partigiane, è evidente con la lotta armata, è evidente oggi con le curde, che vengono depoliticizzate, forse anche, diciamo, private di sentimenti. Perché a loro neanche si viene detto che viene fatto per amore, vengono sempre soltanto descritte così belle perché sono molto fashion, queste donne sulle copertine fanno vendere, perché sì. Poi altra cosa è che la donna in armi, in realtà c'è il doppio creare pulsione, perché appunto va oltre il tabù della violenza femminile, infrange questo tabù, però crea anche attrazione feticista in un certo senso. Quindi negli anni 70 ad esempio era pieno di articoli morbosi, certo, sulle donne, no? Che sulle donne della lotta armata, lo stesso diciamo atteggiamento morboso c'è anche verso le combattenti curde, che certo, almeno quelle 2-3 settimane che stavano sulle copertine, che venivano, diciamo, fotografate e descritte in tutte le cose possibili e immaginabili, senza poi dire invece. No, ti volevo dire, rispetto anche a altre cose che girano su quotidiani, questo non è assolutamente nemmeno per finta di sinistra, non mi ricordo, mi sembra che fosse, che è il Corriere, che stanno facendo una web series in cui fondamentalmente c'è questa storia di questa partigiana, che era una partigiana che viene raccontata con questa donna molto religiosa, che amava tanto il prossimo e che voleva bene a tutti e che tutti in paese la salutavano e che le volevano bene, che, cioè, senza di lei non si sarebbe potuto, che il suo sogno era diventare madre e addirittura muore e lascia un pargolo di pochi mesi, capito? Cioè, nel senso, questa è la narrazione che sta portando, cioè che hanno preparato adesso, quelli del Corriere, per adesso il per il 25 aprile sì, perché no, e appunto, perché si ricollega pure a questa cosa del dove la donna è completamente sparita oppure è rientrata in categorie precise e specifiche in cui puoi essere stata nella resistenza solo se hai fatto questo, il che poi sul discorso della resistenza sappiamo bene che poi effettivamente anche il racconto e la narrazione di quello che è stato realmente la resistenza, no, poi ha preso vari revisionismi, no? Certo, anche perché sì, a parte che comunque appunto anche le donne che scelgono poi la resistenza, si viene detto che lo fanno per amore dei figli o del marito, così torna a casa presto perché la guerra finisce, no? Perché ovviamente la guerra è brutta perché ti toglie il marito, che è la tua stampella, senza cui sei una cosa così, che insomma stai là che vaghi senza, se non è un marito non sai che fare, sì. E poi questo qua si collega appunto al revisionismo, cioè nel senso che la resistenza non viene più vista come una lotta di anche, diciamo, rivoluzionaria per di emancipazione sociale, una lotta di classe, ma viene semplicemente ricondotta a una guerra contro l'invasore nazista, e quindi diciamo la visione quella pacificata in cui il partigiano monarchico, il partigiano democristiano, il partigiano la resistenza militare, adesso va tantissimo di moda questa resistenza militare, Montezemolo eccetera eccetera, sembra quasi che la resistenza non hanno più fatto i partigiani, hanno fatto solo loro, sì, i militari, no, cioè, perché è questo, se anche se si vede diciamo le pubblicazioni degli ultimi anni, c'è molto molta attenzione, qualcuno dirà sì perché fino adesso non è stata studiata. È vero, non è vero, in realtà il fatto è che adesso tira, e tira perché va molto di moda questa visione, quella poi dopo Ciampi, Napolitano, che certo, hanno appunto fatto di questo patriottismo costituzionale basato sulla resistenza come diciamo madre della Costituzione italiana, tra l'altro Costituzione italiana che poi è stata in realtà tanto citata quanto svuotata con il contenuto sociale poi nel corso dei loro settennati uno e settennato un po' l'altro. Certo. E quindi anche questo è funzionale, perché ovviamente le donne che scelgono le armi sono quasi tutte le donne, cioè sono quasi tutte donne comuniste, e questo viene sottaciuto, quindi votare anche di questo, di quel contenuto diciamo di liberazione, tanto insomma di classe quanto di genere, la lotta resistenziale è una cosa che è funzionale al revisionismo, come dicevi. Certo. Insomma, come no? Senti, purtroppo ci tocca chiudere perché il nostro tempo è scaduto. Ci avrebbe fatto piacere, devo dirti la verità, chiacchierare ancora a lungo. Avevamo un mucchio di cose da dire e da scambiarci e da dirti. Comunque ti ringraziamo tantissimo per grazie questo a voi, contributo, per lo spazio. E ci vediamo il 25 aprile in piazza, nelle nostre piazze. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao a tutte, ciao. To see it was bleeding hard on that day, so I ran to the river. It was boiling, I ran to the sea. It was boiling. Con gli ultimi secondi disponibili, anche se li stiamo già rubando a prove tecniche di trasmissione, vi diamo l'appuntamento quindi al 25 aprile in piazza dalle 9:30, c'è il concentramento a via della stazione di Tor Sapienza e il corteo poi si svolgerà sempre appunto lì nei territori di Roma Est fino ad arrivare a Piazza delle Camelie a Centocelle, che era invece l'inizio, diciamo, quello del... Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really happening. Would just peel out the white wear. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone to the other side with my hands like a baby head. Must have paid her a nice price. She's putting on a string.